9 in punto, la versione di Oscar. Buon giovedì 21 ottobre, cari ascoltatori, vi faccio due domande all'inizio, tanto per prima di andare al punto del giorno, ricordare sempre che il nostro dovere poi è di avere un quadro del mondo in cui viviamo. Perché secondo voi c'è una buona risposta alla domanda per la quale, se un paese come la Gran Bretagna, un paese di grande tradizione, che si rimette in piedi e si rimette in ginocchio ciclicamente più volte nella storia, era in ginocchio, deindustrializzato e bloccato nella sua crescita, ecco, il debito pubblico esploso alla fine degli anni 70, poi arriva la signora Thatcher, si rimette in piedi, poi arriva Blair, non manda via le sue politiche, continua, poi finisce il ciclo mercatista, come dicono in molti, quelli che non sopportano chi la pensa come me, e il debito pubblico esplode di nuovo perché si tratta di salvare le banche, però esplode di nuovo, ma molto rapidamente, altrettanto rapidamente, in quanto esploso, altrettanto rapidamente la politica mette mano alle correzioni. E oggi trovate sui giornali che c'è questo bel paese europeo che aveva il deficit pubblico quest'anno che veleggiava verso l'11% del suo PIL, quindi tantissimo insomma, che però dimostra come a un certo punto non si tratta di aspettare poi anni e anni, fanno una bella manovretta e tagliano di 92 miliardi di euro il deficit pubblico e tagliano del 27% per esempio la spesa locale, 27%, cioè si può fare, ecco. C'è chi lo fa. Perché, seconda domanda, di fronte al fatto che da 16 anni prendono i voti sul taglio alle tasse, per l'ennesima volta si apre un tavolo di riforma che promette che metterà nuovi mesi, anni per far parlare tutti inutilmente, un'altra delega, di delega in delega. Ogni volta che hanno vinto le elezioni, e io gli ho dato il voto, non sto parlando di me personalmente, che non glielo do da un pezzo, ma di chi glielo ha dato, diceva tasse, fateci vedere, ogni volta una delega, adesso dobbiamo di nuovo riaprire il cantiere per spiegarci l'un con l'altro e forse tra 3 anni, quando la legislatura sarà finita, non avremo ottenuto nulla, non lo so. Tra il dire italiano e il fare che altrove praticano, io non sono un esterofilo, vorrei semplicemente ricordare a tutti che il tempo e lo sconto del tempo è la categoria fondamentale di ogni nostra attività. Vivere è una decisione tra due grandezze che sono limitate, il tempo e le risorse concrete che noi dobbiamo impiegare e scontare in questa grandezza altrettanto limitata che è il tempo. E c'è chi lo sa usare meglio di noi. Domanda in questo paese, allora, terza domanda e arriviamo al punto del giorno, in cui tutti dicono ai vostri figli che stanno tagliando la ricerca, a proposito della riforma università, stanno tagliando la ricerca? No, il tentativo era quello di non mandare tutti in cattedra le migliaia di ricercatori che continuano a subissarmi di lettere dicendo che sono un ignorante perché tratto questo argomento senza sapere nulla delle loro alate proposte per l'università del merito. Sì, le loro alate proposte per l'università del merito, quando vengono all'università, vengono tratti dagli studenti, tagliano i ricercatori, cioè tagliano la ricerca. Io scoppio a ridere. È una semplificazione? Certo, una semplificazione. Nell'Italia, che non è in cima alle graduatorie per gli stanziamenti pubblici della ricerca e che ha un sistema statistico non molto bravo a rilevare quanto poi il sistema privato spende per la ricerca e l'innovazione nella piccola impresa, dove c'è anche innovazione, non ricerca certo su vasta scala, però c'è e non viene rilevata, allora la domanda è: ci deve pensare solo lo Stato a finanziare la ricerca? I più credono sì, ci deve pensare lo Stato. Io rispondo nettamente no, perché già spendiamo troppo e quindi mi pare difficile sperare davvero che noi arriviamo a il 2-3% del PIL di spesa pubblica per la ricerca e l'innovazione rispetto al totale complessivo, che nel nostro paese supera di poco l'1% di PIL pubblico e privato destinato alla ricerca. E allora perché non inventarsi qualche cosa di nuovo? L'idea c'è e oggi ve la spieghiamo, ve la illustriamo, perché è già diventata operativa. Pensate, il gioco d'azzardo, questa roba che fa bruciare le mani a milioni di italiani, che non bastano i soldi che lo Stato gli ruba con le tasse, non gliene vogliono dare ancora di più e gliene danno giocando a giochi in cui le possibilità matematiche di vincere sono naturalmente di alcuni milioni a loro svantaggio rispetto a una possibilità di vincere, eppure lo fanno tutti i giorni, lo fanno con le cartelle del Super Enalotto, lo fanno scommettendo con tutte l'ampia forbici scommesse legali che si possono fare nel nostro paese, lo fanno anche nei casinò. E allora l'idea è stata: ma perché non volgere in parte questo vizio, questa caratteristica dell'alea che fa bruciare le mani e la testa a milioni di italiani, anche al fine positivo di dare un po' un rivolo, ma insomma una parte di questi denari non solo allo Stato, che se li prende di sicuro con le tasse, e non solo con percentuali improbabili e asimmetriche a coloro che poi si portano a casa un montepremi, ma invece di destinarne una parte a una finalità diversa da questa, una finalità positiva, una finalità per la quale il denaro pubblico non ce n'è, non basta per definizione. E allora perché non rendere il vizio invece virtuoso? Perché non far derivare dal gioco una quantità di risorse che dipenderà da quanti giocano, però per finanziare anche la ricerca? Ecco, questa è l'idea, ed è un'idea già operativa, e ne parliamo oggi con chi ha avuto la pensata di metterla in piedi, di organizzarla, e che oggi si batte perché questa modalità si estenda e magari vi autoassolva un pochino di più nel portarvi a giocare. Allora, abbiamo con noi Alberto Uva, che è il presidente della Fondazione Maria Teresa Parea Uva, e Giancarlo Comi, che è ordinario di neurologia e direttore dell'Istituto di Neurologia Sperimentale dell'Ospedale San Raffaele di Milano. Buongiorno a entrambi. Io comincerei con Alberto Uva, spiegandoci questa idea come nasce e in concreto che cosa avete fatto e quali sono le tappe adesso dell'estensione del progetto. Prego, Uva. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, l'idea, come ha detto bene, è nata dall'esigenza di trovare un sistema per finanziare la ricerca in maniera non più artigianale, ma in maniera industriale, cioè cercare di creare un flusso sistematico. Il problema della raccolta fondi sostanziale, che deve essere importante per supportare le iniziative scientifiche di questo tipo, è trovare un flusso di denaro costante e continuativo. La nostra fondazione, ecco, si occupa dello studio dei meccanismi degenerativi del cervello e del supporto alla ricerca più qualificata per la cura delle malattie neurodegenerative. Ci rivolgiamo all'INSPE e sosteniamo i progetti scientifici dell'INSPE in quanto centro primario a livello internazionale sulla cura delle malattie neurodegenerative e nelle malattie infiammatorie del sistema nervoso. L'idea quindi, che fra le tante che stiamo mettendo in cantiere per creare una macchina di fundraising adeguata, ci è venuta così una sera pensando proprio di andare a cercare le risorse in un mercato dove di risorse ce ne sono molte, perché il mercato del gioco oggi in Italia rappresenta circa un fatturato di 60 miliardi di euro. E da qui è nata proprio l'idea della slot machine, di creare una slot machine che potesse ovviamente essere allestita anche graficamente col logo della nostra fondazione. Abbiamo affidato a un'agenzia internazionale lo studio di un marchio adeguato, è nato questo il progetto Neureka, e dopodiché abbiamo interpellato un produttore leader a livello nazionale e internazionale, che è Magic Dreams, per quanto riguarda la creazione di una macchina adeguate, di una meccanica e un'analisi anche di fattibilità, e abbiamo pure incaricato un'agenzia specializzata in analisi di mercato di fare un focus group, un'analisi su giocatori abituali di slot machine, per vedere se stavamo andando nella direzione giusta, e quindi sia in termini di meccanica, di comunicazione, di allestimento grafico della macchina, eccetera. Dopodiché, fatto questo lavoro che è durato un po' di mesi, abbiamo incontrato Carlo Pagan, nuovo amministratore delegato del Casinò di Campione d'Italia, abbiamo sottoposto la cosa e l'idea, il progetto, e Pagan, essendo uomo di marketing e docente di marketing, ha colto subito la valenza e l'interesse di questo progetto, l'ha sposato, e da qui siamo partiti, nel senso che c'è stata una conferenza stampa martedì 5 ottobre a Milano col professor Comi, che fra le altre cose è nel board e nel comitato della nostra fondazione, e con Pagan, e abbiamo presentato ai giornalisti il progetto, che partirà fra qualche settimana al Casinò di Campione. E che come diciamo, nella sua realizzazione a tappe, fino a quanto prevede di arrivare? Quante macchine per un flusso più o meno apprezzabile di quanto? Sì, allora, per adesso Campione ovviamente organizzerà un'isola, quindi una zona abbastanza visibile dove verrà comunicato anche il progetto e tutto, e saranno quattro macchine con un monitor che praticamente comunicherà il livello di denaro raccolto man mano nei mesi, questo sull'anno, no? E si prevede dopo i primi mesi di poter raddoppiare il numero delle macchine e così poi andare avanti. Bene, allora questa è l'idea generale. Sentiamo da Giancarlo Comi, quindi dell'Istituto di Neurologia Sperimentale dell'Ospedale Serafele di Milano, una delle eccellenze della ricerca in una delle frontiere in cui c'è bisogno di più risorse per i passi avanti che sono stati fatti e che si intravedono nei prossimi anni. Se dovesse descriverci, professor Comi, lo stato attuale di provenienza delle risorse che riuscite a ottenere per le vostre ricerche, come si bilancia tra pubblico e privato? Cioè, quanto dipende dall'intraprendenza, il fundraising di chi poi gestisce l'istituto, lo promuove, eccetera, eccetera, e quanto invece è di parte pubblica? Beh, un istituto come il mio, che ha una centinaia di ricercatori, ovviamente deve preoccuparsi innanzitutto di riuscire a mantenere lo staff che è operativo, e grossolanamente posso dire che un terzo del finanziamento avviene da enti pubblici, un terzo proviene da sorgenti private, cioè dalle cosiddette charities, e un terzo proviene dall'interazione con l'industria. Quindi questo è il mix più o meno, ovviamente delle variazioni poi di anno in anno. Quindi può ben immaginare che è un po' un mal di testa per ogni mattina che mi alzo pensare a come riuscire a mantenere ciò che è sufficiente e potenzialmente anche ad espandere per poter far lavorare il nostro laboratorio di ricerca. E ovviamente la proposta che è arrivata da Alberto Uva mi ha chiaramente estremamente stimolato e mi ha trovato estremamente interessato. Quello che sta succedendo è che ovviamente, dato che la vita aumenta nella sua lunghezza grazie ai sviluppi della medicina negli ultimi anni, bisogna preoccuparsi che questo corpo che vive di più abbia al suo interno un cervello che è in grado di beneficiare di questa vita, perché altrimenti la qualità della vita non sarebbe assolutamente tale da giustificare gli sforzi di mantenerlo in vita più a lungo. Questo è un problema che si traduce nel problema delle malattie neurodegenerative, per capirci il Parkinson, Alzheimer, tutte le forme che comportano una progressiva distruzione del cervello, la sclerosi multipla. E ovviamente siamo molto fiduciosi che questo finanziamento nuovo che si sta aprendo possa contribuire a sviluppare queste ricerche che noi conduciamo in collaborazione con i maggiori centri di ricerca internazionali. Professor Comi, siccome il dibattito su come e dove finanziare la ricerca in Italia è uno dei refrain dei soliti convegni, la convegnistica invece che la soluzione concreta, nella sua esperienza internazionale durante il suo percorso lungo di formazione e poi di esperienza concreta che lo ha portato alla testa di questa eccellenza della ricerca italiana, dall'estero, come le modalità nelle situazioni che ha conosciuto meglio nell'arco della sua vita professionale, che cosa la inducono a consigliare a chi dovesse poter decidere su come finanziare la ricerca, attraverso quali incentivi per il privato e attraverso quali nuove forme per il pubblico, per trarre dall'estero, che funziona meglio, qualche insegnamento e qualche modello per rendere la ricerca italiana meno dipendente da contributi episodici? Ma guardi, io ho avuto la buona ventura di essere presidente della Società Europea dei Neurologi, quindi in questo modo ho dovuto interagire con molti settori di ricerca e con molti centri di eccellenza. Devo dire che la prima regola è che chi ha la responsabilità di gestire un centro di ricerca deve innanzitutto darsi da fare. Certo, questo direi che è una regola che può sembrare banale, ma che poi è essenziale. La vera differenza è fatta dalla capacità attrattiva che un centro esercita, e all'estero funziona molto, negli Stati Uniti in particolare, funziona molto la donazione da parte di privati, per tutta una serie di meccanismi facilitatori anche legati alla detassazione per chi opera in questa direzione. Da noi questo è sicuramente meno rilevante e meno importante. Il finanziamento statale è tendenzialmente un pochino meglio di quanto avvenga nel nostro paese, ma non sempre così meglio di quanto si dice. Quindi credo che sia molto importante potenziare queste sorgenti alternative che vengono proprio dall'intervento sul mercato, in qualche modo. Un aspetto molto interessante è la ricerca che si sta spostando dalle compagnie farmaceutiche ai centri cosiddetti accademici. Le case farmaceutiche trovano oggi molto più interessante sviluppare all'esterno una parte della propria ricerca, e credo che questo sia un ambito di grande interesse, perché chiaramente si realizza una sinergia di interessi e anche una complementarietà di interessi. Do un esempio: stiamo in questo momento firmando un contratto con una grossa farmaceutica che è molto interessata allo studio delle malattie neurodegenerative, con la quale abbiamo deciso di fare insieme un pezzo di strada che riguarda la messa a punto di alcune nuove terapie per queste malattie. Come vede, quindi bisogna cercare sorgenti diverse. Io sono molto d'accordo con quanto diceva lei all'inizio: non è che uno deve lamentarsi in eterno aspettando che qualcun altro intervenga e faccia. Io credo che molto dipenda anche dalla capacità che uno mette in essere per poter raggiungere i propri obiettivi. Faccio un'ultima domanda, perché ne approfittiamo di averla qua, poi torneremo a occuparci poi nella seconda parte della trasmissione di questi meccanismi per indurre anche, diciamo, gli istinti del privato meno nobili, anche se eterni, collegati all'imperfettismo umano, quelli del gioco, per darvi risorse in più. Ma le faccio una domanda invece che ha a che fare con il suo giudizio e la sua esperienza sul livello della ricerca nell'università italiana, l'università pubblica italiana, visto che è uno dei temi che in queste settimane più sta spaccando l'Italia, più sta dividendo, a dire la verità, portando i più dei media, dei giornalisti eccetera eccetera a dire: ah, questo intervento, non le sto chiedendo un giudizio sulla riforma, le dico nella sua esperienza, la mia opinione è molto critica su quanta sia la vera ricerca avanzata che si riesce a fare nell'università italiana, per tante tante ragioni, ma la mia esperienza è questa: l'università italiana, le chiedo, dipende da difetti nel manico, da come è organizzata l'università italiana, da chi davvero conta nella sua governance eccetera eccetera, o dipende dal fatto che nell'attribuzione delle sue risorse interne quel che si potrebbe devolvere alla ricerca vera per renderla interessante, per renderla capace di interagire con le imprese, ne ha appena fatto l'esempio di cosa vuol dire per case farmaceutiche delegarla fuori dal proprio perimetro aziendale, no? Stiamo parlando di ricerche su principi attivi, su molecole, su farmaci. Nella sua esperienza, l'università italiana, che cos'è che manca davvero perché quel po' di ricerca che ci sia avanzata e non sia produzione di carta a mezzo di carta? Guardi, io comincio col dire che nel settore di mia competenza, quello delle neuroscienze, la ricerca italiana in realtà non se la cava per nulla male. La produzione scientifica dei ricercatori italiani è al secondo in Europa dopo la Germania, addirittura prima dell'Inghilterra. Quindi ci sono aree ed aree. Ma quello che lei pone in evidenza è sicuramente un fattore importante. Il problema sta un po' nel manico, perché in realtà per fare una buona ricerca bisogna avere voglia di farla, bisogna essere motivati a farla, e questo ha a che vedere con il reclutamento nell'università. È chiaro che se noi reclutiamo delle persone che non sono fortemente tese a questa obiettività, ovviamente non avremo poi dei risultati. Quindi innanzitutto io credo che debba essere migliorato fortemente il processo di reclutamento, che deve finalmente essere veramente basato sulla capacità delle persone. Io ho la grande fortuna di vivere in una università privata e devo dire, insomma, è chiaro che il reclutamento avviene forzatamente in base alla qualità, perché altrimenti non si potrebbe tirare fila e non si potrebbe avere un bilancio che consenta di vivere. Ci sono, come ho detto prima, alcune realtà eccellenti nella università italiana, certo non è la regola assoluta che vale dappertutto. Il reclutamento deve essere assolutamente modificato, ovviamente anche un migliore finanziamento, ma come in tutte le modalità che ho messo in evidenza prima, è un fattore rilevante importante. Per tutto questo problema dei ricercatori io sono personalmente molto perplesso sul fatto che si debba per legis sistemare la ricerca. Io credo che sia veramente importante capire che queste strutture statali non sono lì per poter giustificare e finanziare la vita di alcune persone attraverso degli stipendi che vengono somministrati, ma è chiaramente alla funzione di produrre un bene comune, e nel nostro caso ovviamente il bene comune è una ricerca che sia adeguata. Quindi questo è una specie di errore, credo, di partenza, che chiaramente non può essere un elemento guida. O noi stiamo nel mercato della ricerca e quindi produciamo dei risultati che sono di utilità nazionale e internazionale, o altrimenti il mercato diventa quello della produzione di carriere, ma questo, devo dire, ha poco a che vedere con la ricerca. Sì, parole sante, naturalmente lo dico a tutti coloro che adesso si accingono a mandarmi altre migliaia di mail a Rete 29 Aprile dei ricercatori, che ancora una volta abbiamo detto alla mitica parola Ope Legis, perché loro dicono che naturalmente questa è disinformazione allo stato puro del becero Giannino, che non ha nessuna idea, che loro non vogliono l'Ope Legis. Sì, che l'abbiamo detto e lo ripetiamo, e del resto il pluralismo dei punti di vista è questo. Ora pubblicità. Eccoci tornati in studio e io torno a dichiarare la mia completa ammirazione per la Gran Bretagna, che leva da un giorno all'altro 500.000 di posti pubblici. Lo so che vi potrà sembrare un messaggio di terrore. Sogno un paese che capisce che ci vogliono discontinuità, che non considera intoccabili i posti di lavoro di nessuno, soprattutto se è il contribuente a pagarli. Ecco, sogno un paese capace di dire: signori, dobbiamo cambiare marcia, dobbiamo farlo presto, se ci avete scelto è perché noi sappiamo dove si fa, come si fa, ve lo proponiamo e soprattutto decidiamo di farlo subito. Ah, è possibile farlo? Sì, è possibile farlo. Perché da noi non è possibile farlo? Perché la logica degli interessi di chi occupa pro tempore la macchina pubblica e vi racconta palle sul fatto di farlo in nome dell'interesse generale preferisce dirvi che niente si può fare, che bisogna essere lunghi, lenti, bisogna raccogliere tutte le opinioni, che nessuno sa di preciso quale intervento deciso, se posto in essere, non creerebbe chissà quali disastrose conseguenze nell'ordinamento civile, nella pacifica coesistenza armonica di questo bel paese, che infatti alla fine va inerzialmente avanti, difetto dopo difetto, incrementa spesa pubblica, incrementa le tasse e soprattutto racconta a se stesso questa favola dell'intoccabilità, dell'irriformabilità, dell'impossibilità e della rischiosità di interventi così dannosamente ed energeticamente incisivi nella spesa pubblica. Ecco, quella è la Gran Bretagna, io preferisco quella roba là. Allora, siccome il quadro è tendenzialmente asintoticamente inerziale nel nostro paese, cioè è difficile produrre grandi cambiamenti in unità di tempi ristretti, perché la quantità di interessi che si elevano e combattono per dire non passi è più elevata della voce vostra che mi ascoltate e che conta molto poco e che resta confinata a fare gli ascoltatori, allora bisogna inventarsi delle modalità negli interstizi, nelle nicchie di questo paese profondamente capace di stupirci ogni giorno, perché sa innanzitutto sopravvivere alle regole demenziali e ai gravami eccessivi a cui è sottoposto. E oggi stiamo parlando esattamente una di queste cose qua. Come utilizzare la vostra passione per il gioco, che vale 60 miliardi di euro l'anno, per tentare di dare risorse finanziarie aggiuntive alla ricerca. E quindi Alberto Uva, presidente della Fondazione Maria Teresa Pareuva, ci ha spiegato come è nata l'idea di queste slot per la ricerca, e il professor Giancarlo Comi, direttore dell'Istituto di Neurologia Sperimentale dell'Ospedale San Raffaele di Milano, che appunto beneficia di queste prime quattro slot aperte al casinò del Campione d'Italia, ci ha detto sì, bisogna far tesoro anche di questo. E allora vediamo con Carlo Pagan, che è l'amministratore delegato del casinò di Campione d'Italia, come se progetti di questo tipo possono estendersi ulteriormente. E lui, dal punto di vista di un gestore di casinò, di chi managerialmente si deve naturalmente occupare non solo dell'incremento dell'offerta del servizio, ma anche del rispetto di tutto ciò che le leggi nel nostro ordinamento chiedono a un casinò per essere gestito in maniera corretta, di fare come questo sviluppo di gioco etico, per così dire, per lui che conosce il mercato, può essere un filone interessante. Allora Pagan, lei che dice? Ma io dico che per noi come casinò di Campione d'Italia questa è stata un'operazione assolutamente importante e direi coerente con la dimensione, come diceva lei, che il gioco sta assumendo in Italia. Noi apparteniamo al terzo settore in Italia, 60 miliardi di giocato, ed è quindi secondo noi corretto che nella nostra comunicazione andiamo a assumere un po' tutte quelle che sono, ad affrontare un po' tutte quelle che sono le tematiche che mediamente la comunicazione in un settore si realizzano. Esiste anche quest'area che è quella della comunicazione etica, che oggi fa parte, direi in modo assolutamente importante e prioritario, della comunicazione aziendale. Quindi quando il grande, devo dire grande perché estremamente come dire attivo, Alberto Uva con il professor Comi ci ha proposto questa operazione, noi assolutamente abbiamo aderito alla proposta e abbiamo costruito una campagna comunicazionale. Devo anche dire che questo tema aiuta anche un po', questo lo dico in modo così da tecnico di marketing, a sdoganare un po' l'immagine del casinò, del gioco, che certamente non è tra le migliori, devo dire soprattutto in Italia. Nel mondo è considerato un, come dire, una modalità di divertimento un po' più neutra, mi rendo conto anche delle implicazioni che il gioco può portare, però devo dire in Italia particolarmente scontiamo un'immagine non così positiva. No, anzi, noi abbiamo fortissime reazioni che dicono sempre bisogna darsi da fare per evitare che gli individui si rovinino, lo Stato etico deve intervenire per bloccare tutti coloro che si rovinano. Io naturalmente sono per le scelte individuali, rispetto chi gioca, io non lo faccio, ma non per questo credo di essere migliore di chi lo fa. Le chiedo però, nella pluralità dell'offerta, per così dire, dei meccanismi di gioco, piattaforme elettroniche che bombardano sul posto di lavoro e sulle case di milioni di italiani e così via, il casinò come fa a restare, per così dire, combattivo, a restare seducente nei confronti di chi a quel punto deve andare al casinò? Certo, c'è l'ambiente particolare del casinò, però lei è il primo a ricordare che in Italia, insomma, non è considerato nella media da un vastissimo numero di consumatori e di italiani come un ambiente da associare, non lo so, a quell'allure particolare dei casinò stranieri. Quindi come si fa a combattere dal punto di vista del marketing, per dire rendiamoci seducenti in qualche maniera? Ma direi con una politica multi-target. In effetti il casinò è l'unico che può offrire una tipologia di gioco in particolare, che è quella dei tavoli da gioco, certamente con un allure, come diceva lei, che non è più quella degli anni 30, degli anni 50, delle sale frequentate dai grandi attori, dai grandissimi imprenditori, ma che comunque è una tipologia di gioco, quella dei tavoli appunto, quindi non so, la roulette, il blackjack, il 30-40, il punto banco, il baccarat, che comunque possono essere offerte per la legge italiana solo all'interno di queste grandi, quattro grandi realtà aziendali. E quindi è chiaro che da un punto di vista appunto di comunicazione noi cerchiamo di spingere questa tipologia di prodotto che è solamente nostra. Bisogna anche dire che se qualche anno fa, e parlo non più di 5 anni fa, i casinò rappresentavano il 14% del giocato in Italia, oggi siamo arrivati a circa un 3%, quindi è vero che siamo un prodotto di nicchia. È chiaro che però abbiamo degli elementi di differenziazione, in inglese li chiamano una unique selling proposition, che quindi c'è, insomma. Quindi oggi chi vuole giocare al tavolo, la ruletta ad esempio, non in una dimensione, come dire, virtuale, elettronica, ma con il rapporto diretto con questa tipologia di offerta, beh, lo può fare solo da noi. Ma perché siete storicamente diventati un po' meno abili a utilizzare una delle armi storiche dei casinò? Non vorrei equivocare in chi mi ascolta, dico una delle armi storiche perché in una, tutti i sondaggi che richiesti dell'idea tradizionale, quella appunto carica ancora dell'ora del casinò, le donne, per i giocatori maschi, le donne presenti, per così dire, erano uno degli elementi di richiamo. Il problema è invece che poi è venuto meno questo, perché ovvio, la questione è che pare che i casinò siano un po' non troppo bravi ad attirare le donne giocatrici. Come mai le donne sono un po' meno soggette al richiamo del casinò? Ma qui mi pare che ci sia un aspetto storico, cioè che al gioco da tavolo, quindi questa tipologia che vi citavo prima, in realtà il cliente è molto spesso uomo. Però forse se ci si concentra solo sull'offerta delle slot machine, devo dire invece che la presenza femminile, credo che sia, adesso il dato mi sfugge proprio nel dettaglio, ma che sia circa un 50%, quindi ci sono molte più donne che giocano alle slot. Il tavolo probabilmente, appunto perché è un prodotto storico, pensiamo ai casinò dell'Ottocento, nasce come un prodotto destinato a clientela maschile e probabilmente nel tempo questo si è mantenuto. È chiaro che però oggi bisogna cercare di cambiare un po' le politiche di marketing del casinò, cercando appunto di considerarlo un ambiente dove si gioca, ma anche un ambiente dove ci sono grandi eventi, dove c'è una ristorazione di livello, ed è quello un po' che stiamo cercando di fare. Non so, ricordo proprio qualche settimana fa da noi il concerto di Dalla De Gregori, un grande evento popolare, direi destinato a un pubblico il più ampio. Certo. E da ultimo vorrei solo sottolineare che però oggi il casinò è visto anche come un grande strumento di promozione turistica. Pensiamo ad esempio all'ipotesi, al caso della Spagna, che proprio aprendo molti casinò ha visto crescere nelle destinazioni turistiche, ha visto crescere la propria quota di mercato turistico nel mondiale in modo importante. E qui c'è un annoso dibattito italiano: molti politici si sono battuti per la proliferazione di casinò sul territorio, poi la politica nazionale ha sempre avuto una doppia remora, per così dire. Primo, quella di non apparire eticamente compromessa. Secondo, ci sono anche preoccupazioni di disintermediazione di quote crescente del gettito erariale. Ma insomma, queste due cose poi, di fronte a un mondo che si organizza e va avanti, ci hanno alla fine visto abbastanza soccombenti. Io sono per liberalizzare e aprire molto, perché nel senso che credo che avere su questo dei freni etici, quando poi gli italiani abbiamo dovuto recuperarli al gioco legale, ma li abbiamo dovuti recuperare rendendo seducente il gioco legale. Io non gioco, però la realtà vera era quella, quindi a quel punto tanto vale guardare in faccia la realtà. Ora le informazioni sulla circolazione stradale, poi le telefonate degli ascoltatori. E insomma, le macchine nei casinò per finanziare la ricerca, l'idea della Fondazione Maria Teresa Parea Uva applicata al casinò di Campione, un'idea che si estende, speriamo, per dare più denari di voi giocatori a centri di eccellenza come l'Istituto di Neurologia Sperimentale dell'Ospedale San Raffaele di Milano. Sentiamo un po' come la pensano alcuni ascoltatori. Cominciamo con Tancredi da Roma. Dottor Giannino, buongiorno. Buongiorno. Mi meraviglio che non è tanto combattivo quei casinò stamattina. E sa perché? Sono troppi pochi casinò in Italia. Io sono di Gorizia, vivo a Roma, ma sono goriziano. E da una vita ho visto frotte di veneti, friulani, lombardi andare al casinò di Nova Gorica. In Slovenia, in Croazia, ogni città. di una certa importanza c'è un casinò, poi tra l'altro là hanno esagerato perché là l'economia è basata sui casinò e sui casini, che dovrebbe essere portata anche in Italia, quindi più casinò, basta solo quei quattro casinò, in ogni città italiana di una certa dimensione ci deve essere un casinò, e così 500.000, che da noi sono 1 milione di dipendenti pubblici, li mandiamo a casa e li mandiamo a fare i dipendenti del casinò. Guardi Tancredi, non mi tenti perché io li manderei altro che a fare i dipendenti dei casinò, ma secondo lei perché, essendo così chiaro, soprattutto nelle aree trasfrontaliere, quello che dice da anni, perché poi in realtà non si è presa questa decisione, secondo lei? Tancredi, è caduta la linea di Tancredi? No, ci sono. Ma guardi, io mi sono sempre chiesto, io vivendo lì ho visto migliaia di macchine, specialmente il venerdì sera, il sabato sera, ci sono andato anch'io, io non gioco, sono andato più che altro per curiosità, ma ne vedo tantissimi italiani che vanno là, e vanno più là, più a Nova Gorica, che a Venezia, perché è molto più facile da raggiungere in 40-50 minuti il venerdì sera, tu da Padova, da Vicenza, da Venezia, sai, a Nova Gorica. Poi dopo là ha preso piede un'altra cosa che porta molti soldi, anche soldi italiani in Slovenia, in Croazia. Poi dopo lei mi deve dire una cosa che mi sono sempre chiesto, non so se sia una politica internazionale questa di favorire questi paesi dell'est in questo modo. Io un'altra cosa, poi tanti soldi vengono portati di là, la prostituzione, che là è regolamentata in Austria, in Slovenia, non stiamo parlando di paesi di terzo mondo, stiamo parlando di paesi molto civili come l'Austria e la Slovenia. Un sacco di soldi italiani va là per gioco e per prostituzione. E soprattutto non restano. Lo so, gli italiani su questo hanno gravi difetti da scontare, secondo me, sull'amore a pagamento. Allora, sentiamo Francesco da Torino. Prego, Francesco. Buongiorno, innanzitutto, grazie per avermi richiamato. Si figuri. Io faccio il ricercatore al Politecnico di Torino. Le ho mandato, mi scusi, un po' il settore perché sto entrando in ufficio. Ah, no, facevo le scale. Allora, senta, io lo chiamo per questo. Non so, sono un po' stupito perché io lo seguo sempre, è bravissimo, è molto bravo. Ma sui ricercatori, vero? Ma sui ricercatori. Già ho capito. Che vorrei, guardi, proprio puntualizzare, ma senza voglia di polemizzare, non me ne importa niente far polemiche. Allora, quando lei dice che noi non siamo proprio fra i migliori come finanziamento, diciamo che questa è una frase un po' pleonastica, perché noi siamo fra gli ultimi, e questo è un primo punto che secondo me fa una certa differenza. Io ho fatto il responsabile di un ente in Fiat Auto, e le garantisco che se uno sta in classifica non proprio fra i primi, è diverso fra gli ultimi, fa la differenza tra essere promossi o cacciati. Certamente. Questo è il primo punto. Il secondo, i dati OCSE, e quindi non i dati della rete 29 aprile, statistici mondiali, dicono che i ricercatori italiani hanno la maggior efficienza sistemica di tutto il mondo. Cioè noi abbiamo una media di 3,5 citazioni pro capite, che è la più alta media di citazioni, che è l'unità di misura con la quale si finanziano per esempio i dipartimenti negli Stati Uniti, più alta al mondo. Quindi noi superiamo Stati Uniti, Inghilterra e chiunque altro in questo. Terzo e ultimo punto rivolto al collega del San Raffaele, dove peraltro io sono stato operato anni fa, è un posto meraviglioso, ce ne fossero altri. La verità, lo so che può magari sembrare bizzarro, è che nessun rappresentante dei ricercatori ha mai chiesto i 9.000 posti da associato. Quello è un giochetto messo sul tavolo dal governo per, come si dice a Roma, buttarla in cacciara, bloccare tutto in questa situazione, inventandosi questa non copertura di una richiesta che nessuno ha mai fatto. Peraltro, se uno si fa i conti, come abbiamo fatto noi, delle fuoriuscite nei prossimi anni per pensionamento, scopre che il differenziale non è 1,7 miliardi, come ha detto il governo, ma è poche decine di milioni. Allora, uno si chiede... Mi perdoni, se dobbiamo assumere come ipotesi l'invarianza del perimetro dei dipendenti e l'invarianza della spesa, lei permette che dobbiamo rientrare oppure no? Io sono d'accordo sul fatto che le spese dovrebbero essere contenute. Noto però che tutti i nostri, diciamo, competitor sulla scena mondiale, non parlo degli Stati Uniti che sono enormi, ma diciamo Stati Uniti, Inghilterra, Francia e Germania, negli ultimi 3 anni, pur con un debito pubblico che non è certo il nostro, hanno deciso di tagliare le spese militari e di incrementare quelle per ricerca. No, hanno deciso di tagliare tutte le spese tranne che la ricerca e la scuola, tutte, non quelle militari, cioè sì, 500.000 dipendenti in meno ci sono in Gran Bretagna. Perché con le spese militari noi i ricercatori all'università non li facciamo tutti i docenti, guardi, perché con quello che spendiamo le spese militari, con tutto rispetto, adesso non vorrei mettermi di nuovo contro, ma è solo per dire che, come vede, è un dibattito che proseguiremo con i rappresentanti dei ricercatori, perché è giusto e sacrosanto così. Io apposta continuo un po' a stimolarle, perché secondo me è giusto entrare nel merito e continueremo in ogni trasmissione a farlo. Quindi ringrazio, come vedete l'abbiamo richiamata, anche se oggi il tema non è proprio quello, ma perché ci tengo a che i ricercatori capiscano che io non ho alcun pregiudizio, e però contemporaneamente dire, come avete detto agli studenti, che il problema non era quello di un posto vostro, secondo me continua a non essere vero, il che non significa che non abbiate poi un'idea sulla governance generale dell'università, eccetera eccetera, però insomma io penso che bisognerebbe dire no, per noi il problema iniziale da cui abbiamo messo mano a tutte queste critiche era esattamente quello. Naturalmente mi sbaglio dal vostro punto di vista, voi sbagliate secondo il mio punto di vista. Allora andiamo un secondo purtroppo alla conclusione. Alberto Uva, avrete nuovi colpi in serbo per volgere questi istinti al gioco degli individui un pochino anche verso fini più nobili oppure no? Ma sì, devo dire, ormai abbiamo iniziato e abbiamo una serie di idee nel cassetto. Fra le altre cose, ne dico una in assoluta esclusiva: abbiamo scovato un produttore, un grosso produttore di carta, che ha un brevetto che permette di stampare a 9 colori su carta chimica con lo scratching, è l'unico che può fare questa cosa. Per cui l'idea che è venuta è di proporre a catene della grande distribuzione uno scontrino col gratta e vinci sul retro, e questo potrebbe essere sicuramente una cosa interessante. Nel contempo stiamo cercando di approcciare i casinò, gli altri casinò, ovviamente campione capofila, e di proporre l'idea di fare un jackpot della ricerca, una specie di circuito o gara fra i vari casinò, dando anche l'idea, abbiamo, di dare una targa di casinò etico a chi riuscirà a raccogliere di più o a dare di più alla ricerca. E poi in ultimo vorrei fare un appello ai grandi players, cioè Lottomatica e Sisal. Noi ci stiamo attivando per contattarli, perché vorremmo provare ovviamente a coinvolgere anche loro e a fare qualche ragionamento anche con loro. Va bene, e questo è quello che mi auguro, quindi casinò e gioco d'azzardo come via alla virtù e alla finanza per la ricerca. Grazie Alberto Uva, chi ha avuto l'idea e il coraggio, il fegato e la voglia di iniziare a metterla in pratica, a Carlo Pagano, amministratore delegato del Casinò di Campione d'Italia, che ha l'intelligenza del marketing, ma soprattutto ringraziamo tutti il professor Comi e i suoi ricercatori, tutti coloro che fanno l'Istituto di Neurologia Sperimentale all'Ospedale San Raffaele di Milano, veramente uno dei centri a cui guardare in Italia e dal resto del mondo in Italia. Ce ne sono tanti altri, non troppi di centri così, ma perché hanno formule organizzative, mi dispiace dirlo, diverse da quelle del settore pubblico. Per questo sono di una qualità elevata, perché scelgono con più acume e con più tagliente giudizio il merito di chi ci lavora, perché lo misurano su standard che vengono resi all'interno del perimetro organizzativo. Il criterio per giudicare chi va avanti e chi ha bisogno di soldi della ricerca rispetto agli altri, nel settore pubblico questo non avviene. Grazie a tutti, grazie a regia Carmelo Lauricelli, in redazione Alessandro Marco Tulli e a Franco Piantanida, grazie a cui siamo andati in onda. Linea Generale Radio, appuntamento a domani.